Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come ho annunciato poco fa al giornale radio, oggi sto provando ad inaugurare una nuova modalità di trasmissione a Melog. Nulla di nuovo, la radio non inventa nulla, ma in realtà ogni giorno si inventa tutto. Voglio che l'argomento, come l'argomento di ieri, dell'altro ieri, che normalmente è suscitato da un fatto di cronaca o da un qualcosa che è stato scritto sui giornali o già detto da qualcuno, sia invece suscitato da un'esperienza personale. Voglio portare in studio un testimone di una modalità dell'esistere qualsiasi, di un'esperienza di vita qualsiasi, e cominciando dal suo racconto, che sarà senz'altro una parte, una parcellizzazione della complessità del problema, voglio interrogare il pubblico ad integrare, a portare il suo contributo. Sempre di più vorrei creare un rapporto solidale, non nel senso che dobbiamo appoggiarci a vicenda, ma dobbiamo entrambi, noi che stiamo di qua, dalla parte del microfono di chi fa radio, voi che state a casa vostra, in macchina, in ascolto, in qualsiasi possibile modalità, delle possibilità di integrarsi nel comprendere meglio la realtà, nel comprendere meglio il quotidiano. Ognuno di noi porta il suo apporto, noi portiamo le nostre fonti, il nostro mestiere, la nostra capacità di muoversi attraverso gli argomenti, entrare e uscire da argomenti, voi portate il vostro vissuto. Il tema di oggi è l'adozione, essere adottati. Quante volte abbiamo parlato di adozioni? Abbiamo parlato in termini di leggi sulle adozioni, di proposte di legge sulle adozioni, di casi clamorosi. Oggi nulla di clamoroso, soltanto esperienze personali. Ho in studio una ragazza, sentirete dopo la prima pausa, che fra poco darò la linea appunto all'informazione del traffico, che è stata adottata. È stata adottata attraverso una modalità che lei vi racconterà. Una ragazza consapevole dell'essere adottata. Ma per quante volte ho trattato questo argomento, non è mai così rettilineo il cammino, è così consapevole, e nonostante questa consapevolezza comunque è sempre caricato di un'infinità di problemi, di sottolivelli di lettura, di angosce personali, di difficoltà. Sono le persone che sospettano di essere adottate, non hanno mai il coraggio di chiedere ai propri genitori se realmente sono i suoi genitori biologici. Sono le persone che sanno di essere state adottate soltanto in età avanzata, o perlomeno non da bambini. Hanno sempre capito, intuito, e lo rileggono a posteriori, che qualcosa attorno a loro c'era di strano. Sguardi di certi parenti, cose dette a mezza bocca, altri bambini che lo sapevano e che comunque su questo in qualche maniera creavano qualcosa di diverso rispetto a come si trattavano quelli che avevano un papà e una mamma, che erano proprio quelli che li avevano geneticamente generati. Altre persone in realtà sono alla ricerca disperata dei genitori naturali, nonostante che siano stati abbandonati, lasciati e probabilmente rinnegati dai propri genitori, vorrebbero conoscerli, magari per chiedere loro perché mi ha lasciato, oppure per vederli in faccia, o per capire se esiste veramente questa sorta di richiamo genetico della carne che ti ha generato, o semplicemente una nostra sovrastruttura culturale. Beh, vedete quante sfaccettature un problema che possiamo trattare questa mattina se voi mi verrete dietro e se voi mi racconterete tutto quello che avete di esperienza personale su questo argomento, l'essere adottati. 800 24 0024. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Come ho detto poco fa, oggi mi servono perché servono a dare corpo, costrutto, carne palpitante all'argomento che voglio toccare oggi: le vostre testimonianze, il vostro racconto, la vostra capacità di integrarvi rispetto alla traccia che getto questa mattina. Il tema è l'essere adottati, la percezione, la consapevolezza o il dilemma, il dubbio che i nostri genitori non siano i genitori naturali. La notizia che qualcuno ci dà, per molte persone, per la maggiore età, quando raggiungono la maggiore età, devono prendere coscienza del fatto che qualcuno è adottati, magari hanno altri fratelli, altre famiglie, altre sorelle, altre situazioni. Io che ho sempre avuto un atteggiamento molto cinico e distaccato rispetto al legame di sangue familiare, ho più volte detto di aver fatto una sorta di solenne sfamiglia in una certa fase della mia vita, perché consideravo il legame familiare un orpello. Ho profondo rispetto e profonda curiosità per le persone che in realtà hanno questa sorta di senso profondo di vuoto, di essere orfani di qualcuno che non conosceranno mai e vorrebbero conoscere. Già è arrivata una telefonata, vi lascio un attimo di sorpresa sulla persona qui in studio e ascolto Roberta. Roberta, buongiorno. Roberto. Sì, buongiorno Nicoletti. Io sono un papà adottivo e da un anno e mezzo abbiamo adottato una bambina cinese che ha 5 anni. L'esperienza che noi stiamo facendo ci ha fatto capire innanzitutto che i bambini che vengono adottati hanno una marcia in più e hanno uno stimolo indicato dalla loro curiosità, ad esempio quando vedono magari una donna in dolce attesa col pancione e la domanda che fanno subito è: ma mamma, io sono venuta dalla tua pancia o sono venuta dalla pancia di un'altra? Beh, la bambina cinese questa risposta se la darà subito, perché c'è un'oggettiva difficoltà a colpo d'occhio di pensare che poi i suoi genitori sono poi i genitori naturali, o sbaglio? Però la domanda la fanno anche tutti i bambini, sia che fossero cinesi che se siano ecuadoriani l'adozione internazionale presenta fattispecie diverse rispetto all'epoca in cui si adottano soltanto bambini diciamo simili esteriormente a noi. C'era la possibilità di questo dubbio, di questa ambiguità. Un bambino che viene da paesi lontani capisce appena c'ha l'età della ragione che i genitori non sono i suoi, lo capisce che sono molto diversi. Sì. Però già nella tenera età comincia a fare delle domande perché chiaramente vuole riempire i suoi spazi dove ci sono i punti interrogativi. E quindi fa anche delle domande che magari non sono così dirette come quella della pancia, però arriva a dire: ma chi sono i miei nonni, ma chi sono... Roberto, ma verrà mai un giorno in cui queste persone lui potrà vederle? Non lo so adesso come il vostro progetto futuro su questo bambino, ma avete messo in conto che una volta vi chieda: voglio andare in Cina a vedere dove sono venuto? Sì, questo l'abbiamo messo nel conto. Io ho anche dei cugini che hanno adottato in Vietnam, e il ragazzo oggi ha 16 anni e quindi loro sono andati ad Hanoi nel Vietnam a vedere e hanno incontrato i genitori biologici del quindi loro avete già pronto diciamo un carnet di risposte da dare via via secondo l'età della maturità del bambino. Quando lui chiederà vengo dalla pancia, cosa gli rispondete ad esempio? Che allora abbiamo dato una risposta di questo genere. Mia moglie ha detto: io sono la mamma di cuore, un'altra signora ti ha generato nella propria pancia e poi noi siamo venuti a prenderti. La risposta più semplice che ti abbiamo dato, e chiaramente è una bambina di 5 anni, c'è poco da articolare nel fare ragionamenti complessi, però la risposta più semplice e più immediata è stata questa. E poi su questa risposta costruirete più su con delle complessità maggiori man mano che cresce la bambina, ma le risposte poi anche gliele darà la vita e il quotidiano, che secondo me attenuerà sempre di più. Oggi, grazie a Dio, per fortuna, viviamo in una società, a torto, a ragione, piaccia o non piaccia, in cui queste differenze tendono sempre a scomparire di più. Nelle classi elementari ci sono bambini di tutte le provenienze, di tutti i colori, di tutti i generi, quindi sarà sempre più possibile pensare che facciamo parte tutti di una grande pancia generale. Sara, buongiorno. Buongiorno a te Gianluca. Sara è l'ospite questa mattina. Sara, 25 anni, romana, è una ragazza che è stata adottata. Faccio una premessa, così poi non le faccio perdere tempo a parlare troppo degli aspetti laterali rispetto alla testimonianza di questa mattina. È una tirocinante psicologa, lavora al progetto Famiglie senza gabbia sulla violenza intergenerazionale all'interno delle famiglie. Sono un po' quelle persone che spesso chiamiamo quando parliamo ad esempio di stalking. Sono le persone che riprendono in cura e riabilitazione gli uomini che picchiano le donne, gli uomini che perseguitano le donne, ma anche altre fattispecie, tra cui anche le persone adottate. Sbaglio, Sara? Sì, esattamente. Appunto, le persone adottate hanno un vissuto di perdita. Io da ragazza adottata posso parlare di quella che è stata la mia esperienza, un po' un'adozione non tradizionale, diciamo, perché sono stata appunto adottata dai miei zii quando avevo solo un anno, quindi da piccolissima. E l'esperienza di perdita... I tuoi genitori? I miei genitori sono morti in un incidente stradale insieme. Allora, ti faccio subito una domanda diretta. visto che tu poi hai dedicato la tua vita professionale all'elaborazione di un problema che comunque c'è nell'essere adottati, tu in teoria, se potessimo fare una scala delle adozioni, sei nella condizione, se mi permetti di dirlo, più felice. I tuoi genitori non ti hanno abbandonato. No. Ahimè, un tragico incidente l'ha fatti morire, non è che ti hanno rifiutato. Chi ti ha adottato è un gesto d'amore immenso, non sono la coppia anziana che rispettabilissimo e lecitissimo va in giro a cercare un figlio perché ha questo bisogno di figlio, qualcuno potrebbe dire ah ma sai è un atto di egoismo, no, i tuoi zii che hanno pensato questa bambina di famiglia ce la pigliamo noi per dargli una famiglia, quindi sì. Nella difformità di un iter familiare diciamo consueto sei nella condizione migliore, eppure tu parli di un vuoto che ti rimane dentro. Sì, di diversi disagi a livello emotivo, relazionale, che poi si presentano in età adulta. Disagi quali aver problemi a creare relazioni funzionali, quindi ricadere molto nella dipendenza affettiva o non fidarsi mai dell'altro, o nella rabbia, nell'aggressività. Appunto ci sono numerose ricerche. Difficoltà a lasciarsi andare. Lasciarsi andare. O se no lasciarsi andare troppo, questi sono i due problemi. Diciamo sì, la via di mezzo, nel senso da una parte c'è un forte bisogno di fidarsi, di doversi fidare dell'altro, di dipendere dall'altro, però al contempo non ci si riesce, quindi si è sempre un po' sull'attenti, pronti a ricevere una delusione, non so. Tu a che età hai perso i genitori? A un anno. Quindi non avevi memoria di loro? Assolutamente. Quindi, no. Fino a quanti anni i tuoi zii ti hanno detto di essere genitore e poi ti hanno detto invece ti hanno... No, io sono cresciuta con la consapevolezza di essere stata adottata e questo è secondo me necessario. Ma la zia la chiamavi mamma e lo zio papà? Sì, io ho sempre chiamato i miei genitori adottivi mamma e papà. E come ti hanno invece ti hanno detto noi siamo gli zii, come hanno fatto a capire la differenza? Allora, ci sono vari canali, da bambina usavano altri modi, soprattutto mia madre adottiva, insomma, stava molto dietro. Io sono cresciuta con questa consapevolezza e spesso chiedevo dei miei genitori, spesso piangevo, spesso mi rendevo conto che avevo bisogno di capire determinate cose mie. Ma te ne parlavano, vedevi le foto? Sì, chiedevo e mi hanno sempre risposto, oddio, anche attraverso le foto. Però tu cosa hai dei tuoi genitori? Delle foto soltanto? Ho delle foto e i racconti dei miei nonni, dei miei genitori adottivi e della mia fantasia. Tu sei giovane, pensa che se oggi accadesse la stessa cosa... Di genitori uno avrebbe tantissime cose, avrebbe i profili Facebook, tanto per cominciare. Sì. Avrebbe l'infinità di filmati, di foto digitali che si sono fatti. Infatti. Tu quanta roba hai dei tuoi genitori? Poca, molto. C'è un poca. Po' di foto? Ho anche dei video. Dei video ce li hai? Sì. Fatti in Super 8 probabilmente. Sì, che... Ci sei te piccolina oppure... Ci sono io piccolina, in braccio a mia mamma, con i miei genitori adottivi, mio papà biologico, vero, i miei Quante nonni. Volte te li sei guardati? Parecchio. Li hai riversati in tutti i formati via via che passano gli anni? Sì, ce l'ho sul telefono. Te li porti nel telefono? Te lo sto per domandare. Sì. E ogni quanto li guardi? Spesso. E cosa si vede? Tua mamma e tuo papà piccoli? Sì, si vede io da bambina, si vede mia mamma che mi prende in braccio ed è un nostro contatto, no? Il vederla guardarmi. Il vedere quanto sono simili a me anche fisicamente, cioè, anzi, ecco, questo quello, è importante, insomma, questo è importante, trovare il nesso del passaggio genetico fra una persona e richiamo genetico, cioè, o almeno nella mia fantasia, dai racconti, cioè. Beh, comunque, nella sfortuna, lo zio tutto sommato è sempre fratello di tuo padre o qualcosa del genere. La mia madre adottiva era la sorella di mio padre. Quindi, diciamo, dei tratti somatici della stirpe ce li hai. Ce l'ho, sì. Quindi, io... Sono stata fortunata nella mia, cioè nella tragedia, assolutamente sì. Perché hai scelto questo lavoro? Perché, come ho detto io, un'elaborazione costante continua di quello che ti accade. Vuoi lucidità in queste, ritualità? È un ramo che mi interessa da sempre, cioè io non ho mai avuto dubbi su quello che volevo andare a fare. E sì, non è un caso che poi mi sono ritrovata a lavorare proprio nell'ambito delle adozioni, come in questo caso, appunto, la ricerca di cui hai parlato prima. Allora, da psicologa, anche se stai facendo il tirocinio, come leggi il fatto che tu nel tuo cellulare porti il film dei tuoi genitori? Beh, è normale voler... Come si chiama? Non ha un nome, però è il voler conoscere i propri genitori biologici. È normale questa curiosità anche, insomma, la curiosità di cui parlavamo poco fa. 800 24 00 24. Comincio a far raccontare a Sara la sua storia e voi raccontate la vostra. Paola, buongiorno. Buongiorno. Solo una battuta, poi ci sentiamo dopo la pausa. Qual è la differenza sostanziale tra la sua storia di figlia adottiva e quella di Sara che ha sentito? Una differenza sostanziale. Pronto? Sì. Sì, la mia differenza è diversa perché Paola era piccola di un anno, cosa che invece io ero già grandina, avevo 9 anni, pertanto ho vissuto il collegio e poi dal collegio quando ho conosciuto la mia famiglia adottiva, perché sapevo che dovevo essere adottata in quanto i miei genitori mi avevano abbandonato. Allora ferma Paola, ferma lì, prendi un attimo respiro, diamo un attimo, pochi secondi di pausa. La differenza è che Paola ha dei genitori che l'hanno abbandonata, fondamentale. Sa che c'erano i genitori, sapeva che c'erano, sapeva che non la volevano più, naturalmente. 800 24 00 24, a tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, il tema oggi è essere adottati. In studio Sara, 25 anni, romana, che è stata adottata dagli zii quando i suoi genitori sono morti in un incidente. Lei aveva un anno. Porta nel suo smartphone il filmato che gli ricorda i genitori, che ha riversato di supporto in supporto e se lo guarda continuamente. È tirocinante psicologa, si occupa di disagio e nella sua professione trova anche gli strumenti per elaborare quello che comunque crea un disagio. Il fatto di non avere una continuità reale, fisica, come esperienza dei propri genitori genetici. Ha chiamato Paola, che ha un'esperienza diversa. È stata abbandonata dai suoi genitori e messa in un istituto, Paola. Sì, buongiorno. In un istituto sei stata messa? Sì, esatto. E qual è il tuo ricordo più lontano? Il mio ricordo lontano purtroppo che durante il periodo dell'istituto penso di aver rimosso proprio tutto, in quanto non ricordo proprio niente, né il volto delle compagne, né il volto della maestra, perché all'epoca c'era solamente un'insegnante, né delle educatrici, come se... Chissà, qualcosa è successo. E da quando comincia allora la tua zona lucida che ti ricordi? A che età? No, la mia zona lucida è quando poi sono stata adottata, cioè nei 9 anni ho dei tratti, delle cose molto vaghe. E poi vabbè, quando sono stata adottata da questa famiglia che mi hanno preso, perché un giorno stavo andando a scuola, si ferma l'assistente sociale e mi dice vabbè, oggi non andrai a scuola in quanto verrà una famiglia a prenderti. E è iniziato un nuovo. Ma in maniera così cruda, da un giorno all'altro dice ti viene a prendere una famiglia, ti prende. Io stavo andando a scuola e si è fermata l'assistente sociale, mi fa stare in macchina perché oggi verrà una nuova famiglia, perché io avevo già avuto dei colloqui con delle persone, dei futuri genitori, e poi che non mi hanno preso. Alla fine vabbè, sono stata accolta da questa famiglia, portata in un'altra regione, e è iniziato un nuovo percorso. Naturalmente ho vissuto per tanti anni in un collegio dove eravamo tanti bambini, perciò quello era il mio mondo. Ci sei mai tornata, Paola, in quel collegio? Sì. Ecco, però, e dopo mi sono trovata in questa famiglia da sola, con due persone che io non riuscivo neanche a chiamare, né mamma e papà, perché io nei miei 9 anni di vita non avevo mai chiamato nessuno mamma e papà, insomma. E mi sono trovata a scuola, di cui la scuola era già iniziata, con un cognome diverso rispetto ai miei genitori. Ma ti volevano bene i genitori nuovi? Sì, moltissimo. Dopo naturalmente ho avuto il loro cognome e dopo, a metà adulta, circa 30 anni, sono voluta ritornare alle mie origini, di cui ho conosciuto, però per me mia madre e mio padre sono stati genitori adottivi. Ma tu l'hai conosciuto i genitori, quelli biologici? Sì, l'ho conosciuto. Fermati un attimo Paolo. Allora, Sara, che ne dici di tutta questa storia? Io mi sono sorpreso la brutalità. A una bambina 9 anni che ti vengono a prendere, oggi ti portano via come se fosse un pacco. Diciamo sono dinamiche abbastanza brutali in realtà, perché poi una volta dato il bambino in adozione non c'è un continuo. È una pratica chiusa per loro. Esatto, l'elaborazione non avviene mai e l'elaborazione deve avvenire. Appunto, Paola, mi dici che tu non ricordi niente della tua vita dagli 0 ai 9 anni. Questo come si chiama? Io conosco un meccanismo di difesa. Una persona che mi ha sorpreso che non si ricordava niente della sua fanciullezza. Questo può essere un meccanismo di difesa. Che uno dei più un trauma che è proprio stato. Sì. Cioè tu cancelli completamente un vissuto molto traumatico e quindi, cioè, che richiama dei forti disagi e anche del dolore. Poi, io non so tu Paola come hai elaborato questa adozione. Allora, io, ecco, per esempio, ho fatto lì la comunione nel collegio, ma io neanche ricordo il giorno della comunione, il mio vestito bianco, proprio niente di niente. E oggi sto facendo le scale, scusate. Come ricordo? Beh, gli anni vissuti in quel collegio, quella purtroppo era... Ma che era, suore, un collegio religioso o un collegio laico? Sì. No, no, collegio religioso. Con le suore, Sì, e premetto però che io, rispetto a Paola, sono molto più grande, ho 55 anni, pertanto c'era un certo tipo di educazione e di comportamento non così pedagogico verso i bambini della struttura. Cioè, oggi, diciamo che hai rimosso come trattavano le suore, adesso mi accuseranno di settarismo, ma non credo che sia stata proprio una passeggiata. Anna Maria, buongiorno, Anna Maria. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Adottata anche te? No, non sono adottata, ma sono molto, molto premurosa nei confronti dei bambini, mi fanno molta tenerezza e quindi vorrei che fossero tutti felici senza problematiche. Anche noi vorremmo tutti un mondo senza guerre e senza fame. No, però. Comunque volevo dire che per questo problema che riguarda particolarmente anche gli adulti a tu per tu con i bambini, no? Poter decidere anche per loro. Sì, ma fammi capire, no, Anna Maria, vuoi capire perché hai chiamato te? Sei stata adottata? Sì. No. Conosci persone adottate? No, solo perché volevo chiedere alla sua ospite se ritiene che anche i bambini che non hanno conoscenza proprio di uno dei loro genitori perché magari nati con la fecondazione artificiale o anche... Ma è il tuo caso, Anna Maria? È il tuo caso? È il tuo caso? No, non è il mio caso. Conosci qualcuno che ha questo problema? No, mi sono posta questo problema da diverso tempo, quando sento in televisione comunque che persone hanno, magari anche VIP, no? Soprattutto, hanno deciso di avere... Ah, tu dici l'eterologa crea dei traumi nei bambini perché non sapranno mai chi è il padre. Questo è una folata ideologica la tua. Devi dire, poverini, gli rimarrà sempre un buco nella coscienza perché non sanno chi è il padre. Questo è il senso. Anche di un bambino che sa di non avere il padre. Sì, vabbè, non è esattamente la stessa. Scusami, ma valla a fare da un'altra parte, non importa proprio nulla. Non è questa la situazione. Tu vorresti dire che i poveri bambini adottati da delle coppie magari dello stesso genere avranno dei grossi traumi. Benissimo, non ho prove e non ho letteratura per parlare di questo. Paola da Terni, buongiorno. Buongiorno, senta, io chiamo perché sono una madre adottiva di un ragazzo adesso adolescente adottato all'età di un anno e mezzo e sono assolutamente d'accordo con quello che la vostra ospite, la sua ospite stava dicendo, che un bambino deve essere informato in base all'età da subito e da sempre della condizione di... Lei lo ha fatto, Paola? Sì, io l'ho fatto nei modi che sono in base all'età, partendo dalla favoletta degli orsi in su. Come non la conosco, com'è la favoletta degli orsi? Nel senso, una delle tante, insomma, che vengono che posso avere utilizzate nel tempo. Cioè attraverso la favola gli fa pian piano avvicinarsi al concetto che non è la sua mamma biologica. A un anno e mezzo, insomma, non è il caso di dire ad un bambino non vieni dalla mia pancia, in modo diretto, anche perché non so quanto sarebbe compreso, insomma. Ma sentiamo un attimo Sara, vediamo se riusciamo a integrare. Stai accusando degli elementi che tu già conosci naturalmente, perché se questo è diventato il tuo lavoro, con casi del genere tratti. Chi si rivolge a te, al tuo gruppo, allo studio che state facendo e qual è il tipo di disagio su cui volete lavorare? Allora, questa ricerca, Famiglie Senza Gabbia, appunto, che ho introdotto prima, sta cercando proprio un campione di persone adottate o abbandonate o rifiutate, che hanno quindi subito un'esperienza di perdita, proprio perché partiamo dall'ipotesi che queste persone hanno una più alta probabilità poi di agire o subire violenze, qualsiasi tipo di violenza. Rientra sempre, diciamo, l'ambito dello stalking. stalking su cui lavorate? Anche lo stalking, certo, però parliamo anche di violenza psicologica, verbale, meno manifeste, anche quella fisica ovviamente, e proprio perché dovute a disagi relazionali, quindi anche a una dipendenza affettiva verso l'altro, e questo avviene se queste matrici, quindi l'adozione, la perdita, il lutto, la separazione e quant'altro, non vengono superate, non vengono elaborate. Dammi un esempio, scusa, un aiuto. Prima ti ho visto un po' perplessa, che ho trattato in maniera un po' brutale la signora, ma non sopporto il sotterfugio ideologico. Sì, l'ho capito. Non lo sopporto. Voleva dire che avendo adottato un figlio, probabilmente questo bambino avrà tutta una vita impossibile e difficile. Non esiste, è così. Esiste letteratura in questo caso? No, non è proprio così. L'adozione è già un trauma in sé per sé. Sì. Il legame con i genitori adottivi si può creare e deve essere assolutamente creato un legame valido che risponda ai bisogni emotivi e relazionali del bambino. Soprattutto deve andare anche a superare e elaborare questa esperienza, perché c'è, a prescindere da come poi è andata l'adozione, esiste e abbiamo gli strumenti fortunatamente per superare questi disagi. Beh, tu ne sei la prova vivente, stiamo partendo con un racconto di se stessi, sereno e tutto, di un'adozione che è stata la miglior soluzione possibile per una situazione da bambina che rimane orfana improvvisamente a un anno. Sì. Da qui in su però è molto più variegato e più complicato, ma se tu stessa dici devi elaborare qualcosa, pensa solo a elaborare gli altri. Esatto, attraverso la psicoterapia, io sono 2 anni e mezzo che vado da uno psicoterapeuta e questo mi ha aiutato assolutamente ad acquisire la consapevolezza dei miei disagi, a capire il perché e poi insomma cercare di elaborarli, superarli a lungo. Questo progetto prevede anche un percorso psicoriabilitativo gratuito ed è aperto a tutte le persone che hanno appunto subito questa esperienza. Sentiamo Sonia velocemente. Sonia. Sì, buongiorno. Io riunisco entrambi i casi, come ho detto prima. Cioè, ho perso i genitori quando avevo 4 anni, sono stata affidata ad una zia materna, la quale mi ha tenuto un annetto, più o meno, e poi mi ha praticamente messo in istituto. Cioè, ha fatto un passo che non era capace poi di gestire fino in fondo. Esattamente, e sono stata adottata a 7 anni. Quindi ho vissuto con gli occhi da bambina 2 abbandoni. Sara, però siamo ancora qua. Sara, rispetto a questa storia, è una storia complicata. Sì, 2 abbandoni. Come vivi tu? Come affronti questa cosa? Ma io l'ho affrontata con anni ovviamente di terapia di supporto. Ok. Finché poi un giorno ho deciso di chiudermi in una stanza e di ripercorrere con molta fatica dal momento della nascita fino al momento dell'incontro con la mia famiglia adottiva. Quindi mi sembra chiaro, Sonia, che l'intermezzo della zia non è stato un intermezzo che abbia lasciato segni positivi nella tua storia. No, per niente, assolutamente. Allora fermati un attimo, devo dare la linea al traffico, ci riprendiamo proprio fra un istante. Melog, cronache meridiane. 800240024, ho avuto finora in studio Sara, ragazza adottata che è diventata psicologa, sta facendo il tirocinio, terminando il tirocinio a fare psicologa e aiuta le altre persone che sono passate per un'esperienza come la sua, quella di essere state adottate, a superare tutti i possibili problemi che ci sono. So che tu adesso devi dare appunto a una tua paziente, Sara, non ti voglio trascinare oltre nel filo della discussione, perché sarebbe brutto che tu la lasciassi sola a se stessa. Però dici prima, per partecipare a questa ricerca che stai facendo, cosa bisogna fare? Allora, titolo assolutamente gratuito e basta. Chiamarci, l'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, con sede a Roma, facilmente trovabile anche su internet. Il sito è www.socialmente.net. Il numero invece è 06 44 24 6573. Per chi volesse insomma partecipare cosa significa? Dare un contributo a una dare ricerca? Dare un contributo assolutamente, insomma, il fine della ricerca e prevede qual è? Il fine della ricerca è proprio interrompere la trasmissione generazionale della violenza, proprio perché queste persone hanno più probabilità di agire o subire la violenza, partendo proprio dal nucleo familiare, appunto si chiama famiglia senza gabbia, ed è aperto a chiunque ha subito un'esperienza di perdita, lutto, separazione, abbandono, rifiuto e adozione. A chiunque fosse passato per una di queste esperienze, di chiamarci, se vuole contribuire a creare uno strumento strumento scientifico per aiutare, elaborare le altre persone a elaborare questo tipo di problema, può dare il suo contributo, raccontare la sua storia come lo fate oggi in questa trasmissione. E avere anche la possibilità poi di avere 4 sedute di psicoterapia gratuite, perché sono previste insomma dalla ricerca. Quindi aiuti anche te stesso, aiuti a aiutare gli altri. Grazie Sara, ti lascio ai tuoi pazienti e ritorniamo con Sonia. Sonia, finisci di raccontarmi la storia perché ti ho interrotto un po' brutalmente. Rispetto alla storia di Sara, che in fondo gli zii gli hanno in qualche maniera salvato parte della vita prendendosela come una figlia. Per te è stato diverso, la zia è stato proprio questo scalino di cui poteva fare a meno. Valutato che ce l'avrebbe fatta e poi non ce l'ha fatta? Ma in realtà perché è stata una promessa che mia madre le ha praticamente imposto prima di morire, perché purtroppo è stata una lunga malattia. Quindi era proprio storta la promessa, non era proprio nella sua testa di adottarsi una figlia. Esatto, lei poi aveva i suoi problemi, non voglio entrare nel merito. Che problemi aveva? Ma insomma, lei aveva 4 figli di cui... Aveva le sue cose, magari... se avesse avuto un po' più di sensibilità, tra 4 e 5 figli non c'è molta differenza. E invece sono stata veramente trattata in un modo molto... Ma l'ha più rivista questa zia poi? L'ho rivista, sì, per un po', e poi io ho voluto troncare i rapporti. Ha sfamigliato anche lei, perché sa che la cosa migliore alla fine, più ci si pesta e peggio è. Ma io francamente, lei mi chiamò un giorno in un momento di grande dolore, perché era morto mio papà adottivo, e io non avevo voglia di ricevere il suo dolore, perché non era vero, non poteva essere vero. Ci sta una zia cattiva nella storia di noi, fa parte della letteratura più decadente e più melosa, quindi la sua zia cattiva comunque esiste, è un personaggio, lei se n'è in parte liberata e spero e le auguro di condurre una vita il più possibile serena. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Senta, io le volevo chiedere, più che a lei, magari alla sua ospite. Che è già andata via, quindi può chiederlo solo a me e io con i pochi strumenti che ho provo a rispondere. No, io ho un cugino che ora ha 40 anni, ma è stato adottato a 5 giorni. Sentivo dire appunto, tutti vogliono sapere i genitori biologici. Lui invece non le ha mai cercati, ha chiesto il discorso della pancia, se era nato, le sorelle, tra l'altro chi l'ha adottato aveva altre 2 figlie vere, sua. E ma lei che problema si pone, Daniela? Che suo cugino non voglia vedere? Come mai lui non ha mai sentito i bisogni? Ma perché sente, le si pone... Invece mi interessa sapere perché lei si pone questo problema, se non se lo pone. Per curiosità, perché siccome tutti quelli che sono adottati sento dire chi cerca... Ma non è tutti, come vede è uno spettro abbastanza variegato. Ma io sarei, se volessi bene a mio cugino, sarei contento, non si ponga questo problema. No, ma io infatti sono un dentista, infatti gli racconto questo e poi la lascio, che non gli voglio far perdere tempo. No, è che mi fa perdere tempo, sono pagato per star qua. Ha dovuto fare delle analisi che soffre di pressione alta a Milano, lui vive a Milano, e gli hanno detto, c'è qualcuno in famiglia, come sempre chiedono, no? Lui ha detto, sì, mio papà, di che hanno chiamato suo papà per dirgli, sa forse, e suo papà gli ha detto, guardi che lui è adottato e lo sa che è adottato. E vabbè, è talmente entrato. Felice, contento, è entrato talmente nel ruolo. No, che... era una curiosità mia a livello psicologico. Penso che nessuno potrà risponderle, perché è così seppellita nel profondo dell'esperienza e dell'elaborazione di un'esperienza negativa del suo cugino che io lo lascerei contento così. E addirittura ormai ha sedimentato il fatto che il problema di pressione le regge dal padre adottivo, quindi per lui quello a tutti gli effetti è diventato il padre. Alessandro. Ecco, salve. La mia storia brevemente, intanto complimenti per la trasmissione, è che ho appena lasciato una ragazza che è stata adottata da giovanissima e da giovanissima le è stato raccontato che i suoi genitori non erano i suoi genitori naturali. Questo ha comportato in lei un sentimento di abbandono, un sentimento di rifiuto da parte di chiunque, che crescendo negli anni e subendo altri traumi successivamente l'ha portata a non fidarsi di nessuno e a sviluppare una sorta di disturbo borderline di personalità. Quindi lei vuole una giustificazione al fatto che è stato accannato la fidanzata sul suo passato, o lei l'ha lasciata? Qual è la dinamica? Io ho provato a convincerla ad andare in terapia più volte non ha funzionato, quindi sono arrivato a lasciarla per vedere se questo gesto la convince, la muove. Sì, se lo prenderà qualcun altro il problema, probabilmente è una persona con delle difficoltà di vissuto, è una persona gestibile molto difficilmente anche nel rapporto, ma se si vuol bene una persona se l'accetta così com'è. Alla prossima.